profondità. Mi trovi lì, questa scala senza misura, è un vuoto che dura, un mondo dentro un mondo. Dai tu